24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, 349-238-6666 per i vostri messaggi, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci qua. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti, buona giornata. Buona giornata. Allora, oggi parliamo di un tema molto molto interessante, sì. La novità che è prevista da qualche tempo per il controllo del credito, un tema molto molto sentito dalle imprese, da tutti noi. Anche insomma. Dalle famiglie, certo. E allora, facciamo un po' un passo indietro. Vi ricordate cosa è successo qualche mese fa quando la crisi finanziaria è esplosa in tutta la sua furia e le banche hanno cominciato a tirare i remi in barca limitando o negando a volte del tutto il credito ai privati e alle piccole e medie imprese. Non è che le cose nel tempo siano ancora completamente cambiate, c'è ancora parecchia difficoltà ad ottenere nuovi finanziamenti o a rinegoziare quelli esistenti. Vi do un dato o una considerazione che è stata espressa ieri da Giuseppe Zadra, che è il direttore generale dell'ABI, in un'audizione al Senato. Nell'ultimo anno ha detto si è più che dimezzata la crescita dei prestiti delle banche alle imprese, anche se lui ha detto non c'è pericolo di credit crunch, che è questo termine inglese che da qualche tempo abbiamo imparato a conoscere proprio per definire la stretta del credito. La novità è che da qualche settimana su quello che appunto si chiama credit crunch sono chiamate a vigilare le prefetture italiane sulla base di disposizioni precise del Ministero dell'Economia, al quale peraltro poi dovranno dare conto delle loro rilevazioni. E allora, come funzionano le task force del credito dei prefetti? Chi meglio di un prefetto questa mattina ce lo poteva spiegare? Abbiamo interpellato la città di Firenze, che è stata sicuramente fra le più solerti a ricepire le indicazioni di Tremonti. E sei da con noi questa mattina il prefetto Andrea De Martino. Prefetto, buongiorno e benvenuto a Radio 24. Grazie di essere con noi. Allora, ci sono due aspetti rispetto a questa novità da spiegare. Intanto, come si possono segnalare ai prefetti le, come dire, controversie con la banca se questa ci nega il credito, e poi l'attività degli osservatori sul credito. Partiamo con ordine. Sul primo punto. Sì, esattamente. Come il prefetto raccoglie i reclami dei clienti e delle imprese? Dunque, noi già dall'inizio del mese di aprile qui a Firenze, ma questo è accaduto non solo in Toscana ma nelle altre prefetture d'Italia, abbiamo messo a disposizione sia dei capi famiglia che dei cittadini che fanno impresa un meccanismo di incontro per consentire la proposizione di reclami. In che cosa consiste? Una sorta di istradamento attraverso della modulistica estremamente elementare che consente di rappresentare al prefetto, che poi trasmette il tutto alla banca interessata, non solo le indicazioni sulla stessa impresa o sulla stessa famiglia interessate eventualmente dalla restrizione del credito, ma anche informazioni sull'oggetto del reclamo. Qual è la problematica, qual è l'importo del finanziamento richiesto e poi negato, oppure peggioramento delle condizioni del credito richiesto, che so ancora richieste di nuove garanzie. Bene, tutto questo attraverso una modulistica che può viaggiare sia via mail sia per posta ordinaria. Ecco, a Firenze abbiamo offerto anche un numero telefonico al quale cittadini e quanti altri possono rivolgersi per avere indicazioni. Ecco, questo tra l'altro servizio telefonico è accessibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Prefetto, se lei ha piacere io do il numero, magari grazie. Qualche cittadino fiorentino è interessato a questa pratica, 055 27 83 630. Una volta esaminato il reclamo ricevuto, il prefetto che cosa fa? Dunque, guardi, c'è l'invito all'istituto di credito interessato a riesaminare la pratica ad un livello un po' più elevato della struttura gerarchica della stessa banca rispetto a quello che ha negato il credito. Poi sarà la stessa banca a fornire direttamente al cliente la risposta, informando il prefetto sull'esito della valutazione effettuata. Devo dire che al momento, questo è bene che lo si sappia, a distanza di un mese dall'inizio di questa attività, il numero dei reclami pervenuti qui a Firenze, ma direi in Toscana, ed abbiamo parlato con i colleghi e con gli altri soggetti componenti dell'osservatorio il 23 aprile scorso, è davvero basso. Io sono ottimista per natura, ma non penso che questo possa ricollegarsi in maniera diretta ad una, come dire, pressoché piena e totale normalità dei flussi creditizi. No. Forse altre ragioni possono spiegare questo questa lenta partenza a fronte della situazione che lei stessa. Forse i cittadini non sono ancora stati raggiunti dall'informazione che esiste anche questa possibilità per denunciare un cattivo rapporto questa con la banca. È sicuramente una delle cause alle quali con l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, l'ANCI regionale, abbiamo pensato di provvedere con una campagna che di qui a breve metteremo a fuoco e speriamo di poter far presto partire. Ma poi c'è anche, guardi, l'azione che è stata svolta di forte sostegno al credito dagli enti, sia dal governo, ma direi dalla stessa regione qui in Toscana, per ben 48 milioni di euro del proprio bilancio, ma non solo dalla regione, dalle camere di commercio, anche i comuni, 44 comuni qui in Toscana hanno messo in campo risorse per sostenere il credito. La stessa curia arcivescovile qui a Firenze si è adoperata, insomma un meccanismo che ha tamponato, a mio modo di vedere, bene, egregiamente bene, la situazione dei primissimi tempi. Beh, insomma, quindi, prefetto, magari il suo lavoro non sarà particolarmente impegnativo, questo ce lo auguriamo per lei, anche perché questo ruolo di garantire liquidità al sistema delle piccole e medie imprese è una sfida assolutamente inedita anche per la figura del prefetto. Ma direi, guardi, il problema è affrontare le diverse situazioni che si pongono per consentire il benessere del paese e quindi sia sul fronte della sicurezza, sia sul fronte della protezione civile, sia sul fronte dell'economia. Occorre ragionare, esaminare i problemi ed insieme agli altri, quindi istituzioni, categorie economiche, trovare sempre la soluzione migliore, la più ragionevole, la più confacente alla crescita delle nostre città, delle nostre regioni, del nostro paese. Prefetto De Martino, un'ultima domanda. Lei ci ha già spiegato che ancora segnalazioni, comunque l'impianto si sta mettendo in movimento in queste settimane, non sono ancora arrivati, si è però riunito, ce lo diceva prima, a Firenze, il primo osservatorio sul credito, che è composto da rappresentanti sul territorio delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e anche delle banche. I banchieri o i bancari, chiamiamoli come vogliamo, sono collaborativi con voi? Ma guardi, sicuramente c'è una forte apertura su questo fronte, che conferma peraltro una linea di azione. Tenga conto che le prefetture sono impegnate da sempre sull'area dell'usura e quindi su un'area che si prefigge di difendere i cittadini da situazioni che partono proprio dal diniego del credito. Allora devo dire, non c'è da assolutamente guardare agli istituti di credito con nessuna forma di sospetto, questo è fondamentale, anche perché le misure del governo messe in campo sono proprio nella logica di patrimonializzare le banche così che possano a loro volta sostenere l'economia. Bene, qui oltretutto a Firenze, direi in Toscana, proseguiamo con un rapporto collaborativo, lo metteremo ancora meglio alla prova, che so, già sulla questione dei tempi necessari per le istruttorie relative alle richieste di credito. Ma io sono sicuro che sia per la solidità del sistema, almeno qui in Toscana, per quanto mi riguarda, parlo ovviamente della Toscana, sia per l'interesse stesso delle banche a sostenere l'economia, non avremo problemi e particolari criticità. Però, prefetto De Martino, io le ringrazio molto per essere stato con noi questa mattina, torneremo a sentirla molto volentieri, magari nei prossimi mesi, per capire come questo lavoro sta andando avanti, magari sentiremo anche altre prefetture sul territorio, laddove magari la criticità del rapporto fra piccola e media impresa e credito è un po' più evidente, e soprattutto vedremo, insomma, che risultati questa operazione di moral suasion, come è stata definita, sta producendo. Grazie molto e buona giornata, buon lavoro, prefetto. A lei, buona giornata. Alessandro. E allora, tra poco alle 12 a Salvadanaio ritorniamo sulle assicurazioni contro le calamità naturali, perché abbiamo scoperto delle cose interessanti. Abbiamo scoperto che qualche abitante dell'Aquila aveva sottoscritto una polizza ed è riuscito anche ad ottenere, riuscirà ad essere risarcito completamente dalla sua assicurazione. L'ho letto anch'io sul Sole 24 Ore. Bravo. Lo leggo, Ma che dai. Sono le 8:32, ben ritrovati, diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Oggi è il giorno della probabile intesa tra Fiat e Chrysler, anche il presidente americano Obama si dice ottimista. Intanto, secondo l'agenzia Associated Press, i negoziati tra la Chrysler e i creditori sono interrotti, l'azienda americana va così verso l'amministrazione controllata che comunque non pregiudicherebbe l'accordo con Fiat. In Italia Silvio Berlusconi reagisce alle critiche della moglie sull'uso delle candidate donne alle europee. È una bufala montata dall'opposizione, dice, spiace che la signora abbia creduto alla stampa di sinistra. E proprio ieri è scaduto il termine per la presentazione delle liste per le elezioni del 6-7 giugno. Il federalismo fiscale è legge, dopo l'approvazione definitiva ieri in Senato, i punti cardine da attivare nei prossimi anni, più autonomia per gli enti locali, un tetto alla pressione fiscale, maggiore trasparenza nei meccanismi finanziari e la nascita di 10 città metropolitane. Infine il calcio, ieri la seconda semifinale di Champions League, il Manchester United ha battuto 1-0 l'Arsenal, il ritorno tra una settimana. E allora alle 8:33, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Qualche giorno fa, con un provvedimento peraltro senza precedenti, inedito, i magistrati di Milano hanno disposto un sequestro preventivo di 478 milioni di euro nei confronti di quattro colossi bancari. L'accusa sostanzialmente è questa: le banche, prospettando al comune di Milano guadagni facili con i famosi derivati, hanno invece fatto firmare dei contratti che poi si sono rivelati fonti di una grandissima perdita economica, quindi l'accusa è avrebbero speculato su questo. Il problema è che non c'è solo la questione di Milano, il problema è che la questione dei derivati coinvolge oltre 500 amministrazioni, enti locali, province, comuni, regioni, per circa 35 miliardi di euro. E il problema è anche, visto che qui non ne vogliamo parlare dal punto di vista finanziario, il problema è che sono soldi nostri sostanzialmente. E allora io voglio salutare Luigi Ferrarella, che è cronista di giudiziaria del Corriere della Sera. Buongiorno Luigi. Buongiorno. Allora, visto che sono soldi nostri, ci saranno poi delle inchieste, si andrà avanti, ci saranno eventualmente dei processi ed eventualmente delle responsabilità. Il tema è chi paga laddove ci fossero delle responsabilità, sia a Milano sia negli altri comuni, di chiunque abbia firmato contratti con, come funzionario pubblico, e quindi soldi nostri. E innanzitutto la domanda è chi amministra i soldi nostri in queste cose, con quale grado di competenza? Perché alla base, per esempio, del sequestro dell'altro giorno, tra gli atti posti alla base dai magistrati, c'è una deposizione obiettivamente raggelante dell'allora direttore centrale della ragioneria del Comune di Milano, che nel 2005 firmò materialmente questi contratti di prodotti finanziari derivati con le quattro banche internazionali vittime del sequestro l'altro giorno. E lui candidamente il 24 luglio del 2008 in questo interrogatorio dice: io non sono affatto un esperto in operazioni e strumenti derivati, non ho mai trattato questa materia e tuttora non sarei in grado di farlo. In più aggiunge: non sono in grado di interloquire in inglese dal momento che le mie conoscenze risalgono ai tempi della scuola. Ora, questa circostanza può fare sorridere, ma purtroppo sì, è molto rilevante, perché il contratto non soltanto era scritto in inglese, vabbè, quello lo dice, ci sono gli interpreti, ma soprattutto le banche avevano imposto che eventuali problemi contenziosi, liti, venissero regolati in base alla legge inglese. Quindi, insomma, sì, c'è da sorridere per non piangere, voglio dire, perché Una città come Milano si è impiccata per 30 anni a una serie di operazioni su prodotti finanziari che la persona che ha firmato dice di non conoscere assolutamente, e facendo riferimento a una legge, ovviamente, di cui si parlava in una lingua che la persona che ha firmato dice di non conoscere. Insomma, tra l'altro, come detto, sono tantissimi comuni e qualcuno dice, tra l'altro, il destino si è anche accanito veramente in maniera molto molto crudele. Con cosa? Con quale città in particolare? Con la città dell'Aquila. Voglio salutare l'avvocato Angelo Castelli. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Lei è l'avvocato di Formia, definito, non so perché, ma sicuramente, anzi, qualcosa l'ho capito, un mastino, perché ha vinto, credo, 145 volte contro le banche, ha recuperato per esempio nei famosi le vicende dei bond Argentina, Ciro Parmalat, ha fatto vincere, recuperare molti soldi, no? Lei difende, sono sicuro questo è il comune dell'Aquila, perché il comune dell'Aquila è uno dei più indebitati, e così ce lo può confermare da questo punto di vista su questi derivati. Innanzitutto una correzione tecnica, trattasi di enti comunali, per cui sto procedendo alcune in effetti consulenze, perché l'ente comunale in effetti, prima di affidarti un incarico, sì, vuole una consulenza preliminare, propedeutica, che poi va alla giunta e la giunta poi delibera il mandato in fase successiva. Per cui in questa fase sono per dare dei pareri che saranno poi al 99% propedeutici, certo, al vero mandato giudiziale. E allora le chiedo, se un funzionario pubblico, se un amministratore, se chi ci amministra, il caso di Milano effettivamente è abbastanza emblematico con questa dichiarazione, insomma, di quello che ha firmato, dice manco sapevo bene l'inglese, firma e ovviamente impegnando soldi nostri in quella che è definita una finanza creativa, di chi è la responsabilità? La responsabilità di chi è? Cioè, maggiormente dal mio punto di vista è degli istituti di credito, perché hanno prospettato soluzioni diverse rispetto alla realtà. La maggior parte degli interlocutori che avevano le banche erano interlocutori non qualificati, a mio avviso, perché il sindaco o il dirigente amministrativo che spesso ha stipulato questi contratti non hanno le capacità. Il sindaco è espressione del consenso, del resto non potrebbe essere altro in democrazia, ma non è, può essere un professore di lettere, di tutt'altre branche, purché abbia fatto il curriculum politico, per cui di competenze economiche ben poco sa. Questa non è... Gli amministrativi sono di vecchio stile, taluni in effetti non hanno nemmeno la laurea, per cui diciamo non sono interlocutori qualificati con i quali le banche hanno stipulato questi complessi contratti. Però le chiedo, non è quasi una colpa tra virgolette? Voglio dire, sei lì mandato ad amministrare i soldi, i beni pubblici, i beni della collettività, i soldi della collettività, e se non sei in grado nessuno ti obbliga, insomma, a firmare. Siamo d'accordo, questo è limitativo, perché le banche avevano il dovere di non prospettare in maniera facile o comunque con una prospettazione diversa dalla realtà, determinati prodotti molto sofisticati che nemmeno gli addetti ai lavori alcune volte sanno spiegare e capire l'essenza ultima, perché sono molto artificiosi questi prodotti, per cui avrebbero dovuto dargli una prospettazione più realistica e in tal caso in effetti molti interlocutori non l'avrebbero fatto se avessero saputo realmente come stavano le cose. Senta, hanno prospettati come dei contratti sicuri, come una specie, diciamo, di forme assicurative, ma tutt'altra era, in effetti, che non era così, ecco, dal punto di vista giuridico-finanziario. Le chiedo, lei consulenze di quanti comuni, cioè quanti per quali... Ma adesso c'è un pool di 4-5 comuni che chiaramente sono i primi che sto facendo queste consulenze, ripeto, propedeutiche a azioni legali. Alcuni comuni sono del nord, altri del centro, sì, Italia. Leggevo ieri sulla stampa che questi, secondo le ricerche della Guardia di Finanza, viste che sono prodotti molto complicati quelli prodotti derivati, ci sarebbero addirittura scoperti dei prodotti venduti nei portafogli degli enti locali che scommettevano sul downgrading, cioè addirittura sulla bancarotta della Repubblica Italiana. Cioè il paradosso è questo: se la Repubblica Italiana dovesse fallire, allora il comune dovrebbe per questo, esatto, ottenere questo. Ma esiste veramente questo? Esiste veramente sui dati di interesse, quindi più comuni. Ma esiste veramente questo tipo di... Hanno scoperto la Guardia di Finanza questo tipo di contratto? Adesso non ho condotto dal punto di vista investigativo le indagini, per cui non so nello specifico se abbiano realmente trovato e che riscontri hanno. Le posso dire che esistono molti di questi contratti che sono quelli IRS, cioè sui swap, sugli scambi dei tassi, che poi sono quelli maggiormente effettuati da parte dei comuni, degli enti territoriali. E la stima che lei ha fatto, 35.000 miliardi di euro, è una stima prudenziale, ecco. 35 miliardi, non 35.000, 35 miliardi. Ferrarella, dicevamo, la Procura di Milano si è mossa, effettivamente è il primo caso, cioè, che ci sia un sequestro preventivo di questo genere, no? Così anche massiccio. Dice l'avvocato Castelli, insomma, sentito molto spesso gli amministratori non hanno quelle competenze finanziarie, per cui sono stati, secondo l'accusa, insomma, raggirati, ecco, degli istituti di credito che si sono proposti con questi contratti. È una possibilità di difesa, oppure che cosa dice anche la legge in base alla responsabilità di chi amministra un ente? Io sono parzialmente in disaccordo rispetto all'avvocato, perché questo genere di scelte delle amministrazioni comunali sono state fatte dando totale mano libera alla controparte, cioè non è solo un problema tecnico. Quando un'altra alta funzionaria del Comune di Milano dice, relativamente al fatto che un certo derivato non era stato considerato nel contratto e aveva come conseguenza uno sbalzo sfavorevole enorme per il Comune, dice: io in una riunione con questi delle banche posi il problema, tutti però mi dissero che non era necessario farlo in quel momento e che tale posizione sarebbe stata sistemata in un secondo tempo, dicendomi di non menzionare questa situazione nei documenti che avrei dovuto predisporre per il proseguo del finanziamento. Lei lo dice ai suoi capi, i suoi capi dicono va bene. Allora questo dimostra che c'è un rapporto proprio sbilanciato, come dire, mentalmente direi, nel momento in cui fai questa contrattazione. Sì, tra l'altro molti ci scrivono, appunto, la legge non ammette l'ignoranza, come Luca. Ci scrive anche un ascoltatore che dice: sono un assessore ma anche promotore finanziario, furono prospettate anche a noi queste soluzioni, noi non le abbiamo fatte, l'ignoranza non è ammessa. Però è ben difficile anche sostenere che un comune come Milano possa... forse sì, ci sono tanti comuni magari piccoli dove effettivamente sono amministrati da persone che magari non hanno le stesse competenze, ma su questo si giocherà molto sicuramente nell'eventualità di vari casi. Questo è il cavallo di battaglia della difesa degli istituti di credito internazionali, no? Che dicono: ma noi mica trattavamo con degli sprovveduti, cioè. Non sta niente di mercati finanziari, trattavamo con gli uffici dei maggiori delle amministrazioni. Da questo punto di vista, Luigi, però, una domanda conclusiva: dovesse appurarsi una responsabilità anche in capo a, che ne so, il funzionario del comune che ha firmato e che ha esposto un comune a un buco finanziario di tot milioni, quei soldi, che, lo ripeto, sono soldi nostri, li riavremo mai? Chi ce li ridà indietro? Ma direi che ci sono due strade possibili. Quella normale sarebbe, sul piano contabile, un'iniziativa della Corte dei Conti, che chieda, appunto, sì, come danno erariale alle funzionari o direttamente ai sindaci, assessori che risultino aver avuto parte in queste vicende. Che, permettimi di aggiungere, chi l'ascolta la Corte dei Conti? Parla, scrive, fa, ma poi... È abbastanza voce nel deserto. Ecco. Quindi... Devo dire che da un po' di tempo si sta creando questa nuova attitudine delle indagini penali a concentrarsi meno sulla individuazione delle responsabilità personali, quindi condanne, patteggiamenti, e più invece sul recupero dei soldi. Per cui è possibile, in linea teorica, che se... per esempio al primo controllo, al primo vaglio del riesame di questo sequestro milanese, se quella tesi giuridica resistesse, è possibile che anche in altre parti d'Italia altre procure adottino lo stesso schema e quindi un recupero di soldi vi sia, non sul piano dell'azione contabile, ma sul piano parallelo del risarcimento. Sì. E infatti molte procure, scrivono i giornali, sono, diciamo, all'opera, pare, visto che sono tantissimi gli enti esposti. Io vi ringrazio Luigi Ferrarella del Corriere della Sera e l'avvocato Angelo Castelli, che è, appunto, consulente di alcuni comuni, ma insomma è molto combattivo su questo fronte. Allora, alle 8:47 minuti, la nuova parola chiave, il codice delle autonomie, verrà fatto tutto un nuovo disegno di legge del governo. L'obiettivo è questo, chiaro: tagliare in maniera netta tutto ciò che c'è di superfluo, i costi della politica, sfoltire i consigli comunali, sfoltire le giunte, sfoltire le circoscrizioni comunali, via gran parte delle province secondo un criterio di utilità o inutilità, via gli ATO, gli ambiti territoriali ottimali, via i bacini imbriferi montani, via, insomma, tante cose, via anche scomparire del tutto, via con un tratto di penna, le comunità montane. E allora io saluto il presidente dell'UNCEM, l'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità e degli Enti Montani, Enrico Borghi. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Guardi, bisogna dire delle cose impopolari, io oggi lo farò. Viva le comunità montane. Non ho capito, scusi. Viva le comunità montane. Io sto dalla parte delle comunità montane. Beh, lo dico. Ringrazio i cittadini montanari. No, sa perché? Questo non mi esimerà magari di farle qualche critica, ma io non ne posso più quando bisogna tagliare le comunità montane. È proprio la prima. Sono l'emblema. Via. Tratto di penna, le comunità montane devono scomparire. Ma ce l'hanno con voi o non servite proprio nulla, presidente? Perché sempre le comunità montane? Ma guardi, questo è veramente il paradigma di una politica sempre più debole, sempre più schiava di questo gioco degli specchi mediatico che ogni giorno detta l'agenda sui titoli dei giornali, sulle agenzie giornalistiche, che si allontana giorno per giorno dalla società. Ce l'hanno con noi per un semplice motivo, che nel primo capitolo della Casta si sottolineava giustamente l'incongruenza di una comunità montana realizzata in un territorio pianeggiante. Poi magari bisognerebbe andare a vedere chi l'ha realizzata e perché, poi magari si scoprirebbero anche degli altarini interessanti anche con riferimento a chi oggi ha delle responsabilità di governo. Oh, mannaggia, ce ne dica, non abbiamo, se lei può, è in grado di portare avanti la sua... Quella comunità montana è stata realizzata nella regione Puglia quando l'attuale ministro Fitto era presidente della regione. Chiusa la parentesi, senza alcuna No, anche perché polemica, non c'è il ministro a replicare. Quindi... No, ma è perché però, insomma... che poi ognuno si assuma le responsabilità politiche di ciò che fa. Ma non è questo il punto, anche perché col ministro Fitto abbiamo degli ottimi rapporti. Non è questo il punto. Il punto è un altro, che la riorganizzazione del livello della democrazia locale nel nostro paese, perché è di questo che si sta discutendo, dal nostro punto di vista dovrebbe mettere al centro due questioni fondamentali. Da un lato, come fare riprendere efficienza e capacità alla macchina Italia, la dico così. Dall'altro, come garantire i diritti di cittadinanza di tutti i cittadini italiani, a prescindere dal luogo fisico nel quale sono nati o hanno deciso di risiedere. Sì. Mi pare che qui si stia facendo un'operazione di tipo diverso, anche un pochettino iconoclasta, insomma, cioè tagliamo un po', magari se ci accorgiamo scavando un po' nel dettaglio, tagliamo i livelli che hanno uno scarso politico, che incidono nel dibattito. Io no? Dico, tra l'altro, presidente, viva le comunità montane, nel senso che non si può pensare, quando si vuole tagliare i costi della politica, di partire da lì. Detto che forse chissà, anche un taglio lì, qualche taglietto qua e là, insomma, di poltrone magari non farebbe male. Però guardi, noi l'abbiamo fatto perché nei due anni che abbiamo alle spalle, anche sull'onda di questa, ripeto, giusta richiesta dell'opinione pubblica di razionalizzazione, noi abbiamo tagliato gli enti da 356 a 220, noi abbiamo tagliato del 60%, lo ripeto, del 60% le poltrone, cioè il numero dei consiglieri e degli assessori, sì. Abbiamo ridotto la spesa corrente da 180 milioni di euro a 90 milioni di euro, cioè l'abbiamo dimezzata, abbiamo lasciato fuori in accordo con le regioni i comuni marini che erano all'interno delle comunità i famosi. Abbiamo, non è che siamo qui a metterci la medaglia, intendiamoci, abbiamo cercato di fare quello che di fronte ad una giusta richiesta dell'opinione pubblica si è fatto. No, ma io infatti dico, iniziamo dalle società partecipate, tagliamo lì, facciamo meno contratti derivati magari, per questo sposo la campagna. Detto questo, l'ho troppo incensata, presidente, insomma, che dobbiamo dire, maledetta casta, insomma, nel senso del libro. No, dico maledetta casta nel senso del libro. No, ma guardi, ma ognuno deve fare il suo mestiere ed è giusto, che ci mancherebbe altro in una logica democratica che i giornalisti non fossero il pungo della classe politica. Il problema è che la classe politica non risponde come dovrebbe rispondere. Questo è un esempio abbastanza classico. Io credo che il sistema sistema della macchina politica italiana si debba ricostruire partendo dalla testa e arrivando alla coda. Noi siamo la coda. Se invece ci attacchiamo solo alla coda, ma non affrontiamo il tema del bicameralismo perfetto, del numero dei parlamentari, delle competenze tra Stato e Regioni che sono troppo concorrenti e quindi tutti fanno troppo lo stesso mestiere e via discorrendo, evidentemente rischiamo veramente di creare una situazione in cui chi sta al vertice verticalizza sempre di più e scarica in periferia le contraddizioni. Detto questo, visto che le comunità montane, secondo questa nuova sfida del governo, scomparirebbero, però non è che scomparirebbero tutti gli ambiti organizzativi, voglio dire, verrebbero portati a livello provinciale, a livello comunale, ecco, perché non essere a favore di questo? Cioè non è che vengono tolte le poltrone, insomma, però le competenze territoriali vengono mantenute in capo alle province o agli enti, insomma, più vicini, insomma, semplificare. Vuole scommettere con me che se questo disegno di legge diventasse legge le poltrone si moltiplicherebbero? E perché? Per un motivo molto semplice, che oggi in montagna c'è un unico livello associativo che aggrega 4.000 comuni, che in qualche misura, lo metto tra virgolette, ma non troppo, costringe i comuni a lavorare insieme. Togliere questo livello associativo per dire ai comuni: voi siete liberi di crearvi le vostre associazioni, come dice questo testo, e se non creerete queste associazioni tutte le funzioni andranno alle province. Noi avremo da un lato una esplosione di associazioni e dall'altro una caduta di efficienza del sistema, perché molte funzioni comunali passeranno alle province, quindi si allontaneranno dal cittadino, non saranno più sotto il controllo diretto dei cittadini, andranno in luoghi burocratici dove la situazione classica italiana della riproduzione della specie burocratica aumenterà. Noi siamo per una proposta alternativa, un unico livello obbligatorio sovracomunale che nelle aree montane tenga conto anche del fatto che c'è questa caratteristica e specificità in Italia, per quanto, voglio dire, negletta, e per quanto questo sia che c'è la montagna insomma. Lei chiede in conclusione, Presidente, però quelle famose comunità montane denunciate giustamente appunto dalla Cassa sono state chiuse, ma perché c'erano? Cioè, voglio dire, perché facevano parte delle comunità montane? Finché non c'è stata questa denuncia erano lì sul mare e nelle perché comunità montane. In Italia montane. C'è un partito trasversale che si chiama Partito Unico della Spesa Pubblica, che ritiene di poter risolvere tutti i problemi con il trasformismo e con Pantalone. Ma perché lei non le aveva cacciate, voglio dire, lei come presidente, insomma, l'ente? Guardi, io ho fatto le mie assemblee a Paola, a Sorrento, in Puglia, nel Gargano, per spiegare che non si poteva fare più. Non è che voglio chiederle la medaglia, perché ho fatto soltanto il mio dovere. Ma come può immaginare, è come se la CGIL avesse votato a favore dell'articolo 18, insomma, qualcosa abbiamo fatto. Va bene, io con questa la ringrazio, Enrico Borghi, presidente delle comunità montane, diciamo così, dell'Unione, dell'UNCEM, grazie per essere stato con noi, vedremo se ce la farete anche questa volta a sopravvivere al colpo di penna che sta arrivando, o il colpo di scure, qualcuno in maniera più cruenta vuole dire, contro le comunità montane, ma non solo, via province, via molte province, snellire i consigli, le giunte, i parchi, gli enti parco, un giorno parleremo degli enti parco, cosa servono? Vorrebbero cancellare anche tutti questi, servono o no? Chi lo sa? Tra poco Giuliano Ferrara, si parla di veline, c'erano, non c'erano, ci sono, non ci sono, e gli annessi e connessi, le polemiche che ne sono scaturite, politiche non, e noi ringraziando Alessandro Marco Tulli, Laura Marchesi, redazione, Carmelo Lauricella in regia, do l'appuntamento a domani, siamo regolarmente in diretta, no, il 1° maggio si lavora, ahimè, a domani.